Fanculo nuovo papa pure Scientology. Questa vita ingrata fa i suoi porci comodi. Il cinema c'è rapa, siamo ginecologi. E la musica pirata inculerà l'autority. Qui do prova di morte, però io c'ho un'area no. Mi fregheranno tutti come Johnny Depp in Blow. Sta porco dio di Clio che tossisce l'avvio. Sembra Human Centipede, ma qui il dottore sono io. Pensa pure a me se hai problemi d'autostima. A 40 anni vergine mi stupro mia cugina. Il tempo è denaro, tipo come il film in Time. Ma fra l'uno e l'altro forse al massimo c'ho lights. Sette notti in nero suonano al mio funerale. Il diavolo veste Prada, io una tuta dozzinale. Al contrario di Easy Rider, qua per noi non è più easy. Persino Iron Man ha problemi con la crisi. Piego su Bordero la morte dell'hip hop. Per la rianimazione credo ancora in Jeffrey Combs. Ma io sono la cura, come Stallone in Cobra. Mezzo uomo, mezzo porco, come Oscar e Rioga. Fanculo nuovo papa pure Scientology. Questa vita ingrata fa i suoi porci comodi. Il cinema c'è rapa, siamo ginecologi. E la musica pirata inculerà l'autority. Benvenuti nella mia terra di mezzo, alla ricerca di The Ring. Trovo luce in fondo al pozzo. Cavalco l'onda mascherato, Point Break. Tre sballati fuori dal college con in mani un joint man. Cerco occhiali scuri, siamo in missione per conto del tuo dio. Qua la legge, non sono io. Hanno osato cervare un ucciso del re. Passi tra la nebbia della notte che cercano te. Lancio la mia macchina del tempo ai 300 in giro in bici, solitario Nelson. Alla guida del mio camion, guai in vista Chinatown. Tra le vie e dei due mondi upside down. In questo caos mi trasformo come Optimus Prime. Salvo vite come Denzel in Flight. Sento voci che mi guidano tra i campi. Io sono il tuo uomo dei sogni e non uno tra tanti. Fanculo nuovo papa pure Scientology. Questa vita ingrata fa i suoi porci comodi. Il cinema c'è il rap, siamo ginecologi. E la musica pirata inculerà l'autority. A Budapest dentro il Grand Hotel, mentre aspetto te il buffet di veleno. Jean Renone è lo chef, sto sempre peggio. E mi trovo davanti Oblivion, stare fermo, correre al cesso. Istante un verde miglio, la TV trasmette l'oroscopo. Ma di Fox io conosco solo quello fantastico. E le allucinazioni avanzano e vomito l'anima. Ormai mi credo il poliziotto come DiCaprio in Shutter Island. Nelle terre selvagge della mia mente ricerco la felicità dell'apparato digerente. Ma come Smith rimango chiuso in quel bagno. Finalmente sei arrivato e ti chiedi che figlio ho fatto. La città incantata ti crea un forte languorino, incantata dalle pietanze e dalle note di quel mandolino. Suonato dall'uomo dai mori capelli, te ne scappi infatuata col capitano Corelli.